gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera, bentornati su Allineamenti. Io sono un'eminente mente di allineamenti, come tutte le eminenti menti di allineamenti. Stasera manderò in onda un pezzo dei Black Sabbath, Planet Caravan, ma prima vi leggerò alcune mie aforismi che sono scritti sul mio profilo Facebook, che verranno un giorno forse pubblicati, voglia il mio redattore, il mio editore, volendo, diciamo. Ecco, comincio a leggere quello che ho scritto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. Di troppo amore si ammala la truppa, le mie ultime forze forzeranno gli ultimi fortilizi. Fallo folle, follia fallica, tutte cazzate. L'odio, dillo con amore. L'amore, fallo con odio. Il fallo, amalo divinamente, il divino, addolciscilo di follie. Reato teatro, nel retro. Io sono l'origine del peccato, il mio nome è conoscenza del frutto. Il concetto di bene è relativo alla concezione del male. Concepito, il male va ben relato a buona relazione, tale da renderlo ben malvagio. Distinguiti poi con discrezione, la creazione della sorte è il destino del creato. Ho scommesso di non promettere, ho promesso di non scommettere, ma scommetto che me lo sto ripromettendo. Premetto che mi scotta e mi scoccia questa premura e mi premono queste scocciature. Ite adite e direte mitico. Tutto quanto sarà assassinato vivrà senza senno ed inscenerà l'insensato. Chi muore violato è lui che viola la morte. Quanto debilita la forza, ecco ciò che la debolezza fortifica. Io sono già spossato. Amaro come la vita, acre come il morire, dolce come il vivere, sagace come la morte. L'orgia dei telegiornali mi ingrigisce, le ore si arrestano restie. E reso m'arrendo, e arreso mi rendo. Tanta la tana ta san, tan tanta satan. Chiunque riderà della tua disperazione sarà lui disperato dalle tue risa. Dimenticare questo oblio, obliare questo dimenticatoio è una cosa immemorabile. Rinnega la morte e muori nel tuo regno. Con un sorriso condanna, con un sorriso condono. E se un passato migliore passerà ai migliori, anche i migliori passeranno, anzi sono già passati. Quanto vedi è segretamente misterioso, cioè perché tanto misteriosamente segreta vive in noi la morte. Le ombre del giorno sono le luminarie della notte. La carne è un mistero, il sangue è un segreto, segreto la psiche, mistero l'anima, misterioso il corpo e concerto nel suo segreto è lo spirito. Ecco, dopo questa premessa sono degli aforismi raffazzonati, rappezzati, poi messi insieme. Vi mando una canzone, si chiama Planet Caravan e Black Sabbath. Secondo me è una canzone eccezionale, principalmente strumentale, ma molto soft, molto tranquilla, a differenza del tenore solito di questo gruppo. Ecco, buona serata. We sail through endless. Sigla. Ecco, saluti a tutti, buonasera, mi raccomando, seguite allineamenti e seguite Como Radio. Ciao Como Radio, che è un faro in questa zona di buon umore e di buona musica. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.